l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale per raccontare l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità. Lo sapete, non nascondiamo i punti critici dell'Europa, ma noi il sabato, visto che comunque l'attualità politica ed economica viene narrata giorno per giorno da Radio 24, noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista. Le coordinate per seguirci anche virtualmente: chiocciola Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia, il mio account personale. Lì ci trovate sulle nostre bacheche digitali, Facebook e Twitter, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Vi ricordo che questo programma è in collaborazione con il network Euronet Plus. Euronetplus.eu è il portale di riferimento. Lì trovate tante notizie, tante inchieste in tante lingue diverse che raccontano la stessa Europa. L'Europa delle possibilità e delle opportunità, appunto, ma anche l'Europa della cultura. E oggi partiamo proprio da lì. Sonorità portoghesi per introdurre quella che è la terza edizione della Notte della Letteratura Europea che si svolge questa sera. È un appuntamento importante, solo da 3 anni, ma è già un importante appuntamento promosso dagli istituti culturali, dalle ambasciate che fanno parte della rete Eunic Portugal in collaborazione con la rappresentanza portoghese della Commissione Europea. E l'Italia sarà rappresentata da Chiara Gamberale, che è qua con noi. Ciao Chiara, buon sabato. Ciao Federico, ciao, buon sabato. Sarai la voce italiana in questo importante appuntamento portoghese. Com'è per te portare la tua letteratura, le tue parole in giro per l'Europa? Beh, allora, devo dire, per me è sempre un'emozione. Poi io proprio non ho mai paura che la traduzione tolga qualcosa. Quello che ho scritto per me aggiunge sempre, perché se ci pensi poi il primo atto di traduzione è il lettore, certo, che traduce quello che hai scritto nella tua lingua emotiva, no? E è sempre un valore. E poi il Portogallo, cioè Lisbona è la mia città europea proprio preferita. In alcuni miei romanzi, in ben 3 romanzi, quando uno dei miei personaggi magari è smarrito, lo mando a Lisbona per rimetterlo. Io ho un amore per questa città. Leggerai qualche brano tratto da per 10 minuti il tuo, sì, bel romanzo. Ricordiamo che da poco c'è anche Avrò cura di te, scritto con Massimo Gramellini per Longanesi. Leggerai qualcosa anche di questo o rimarrai sui 10 minuti? No, hanno scelto i 10 minuti. Okay. Io in portoghese per ora è tradotto il mio romanzo Le luci nelle case degli altri e sta per venire tradotto proprio per 10 minuti. Però l'iniziativa vuole che le voci rimangano quelle del proprio paese, cioè noi autori, ognuno leggerà nella sua lingua e poi un'attrice portoghese tradurrà in portoghese. Saremo nei vari posti della città e io sono con 10 brani dei 10 minuti, che è un libro che comunque, nonostante sia uscito un anno fa, continua proprio a essere molto importante per me. Assolutamente. Chiara, prima hai detto una cosa molto bella, nel senso che per te la traduzione è sempre aggiungere, sì, qualcosa, ma questo anche nella tua quotidianità, nella tua idea di Europa, cioè l'Europa è un qualcosa che aggiunge o un qualcosa che toglie secondo te? No, assolutamente aggiunge. Io forse mi sento più europea che italiana, ti devo dire la verità, nel senso, mi sento italiana in quanto europea e viceversa. Notte europea della letteratura, quindi questa sera a Lisbona. Chiara, la voce italiana, grazie davvero Chiara per essere stata con noi, in bocca al lupo. Grazie Federico, insomma, grazie. Mettete un po' di quella musica stupenda adesso? Adesso ti mettiamo un po' della tua musica, assolutamente. Ciao Chiara, grazie. Buon sabato, grazie, ciao ciao. E Era Chiara Gamberale per 10 minuti. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Scatta e twinning. Avviso a tutti gli aspiranti fotografi. Torna al photo contest su Instagram, hashtag scatta e twinning. Il tema di questa edizione è 10, per celebrare il 10° compleanno di eTwinning, la comunità delle scuole europee. Tutte le foto dovranno ispirarsi al concetto di 10 in modo originale e creativo e contenere l'hashtag scatta e twinning nel commento. Il concorso è rivolto principalmente alla creatività di studenti, docenti e personale scolastico, ma è aperto a chiunque abbia un account Instagram. I migliori 13 scatti andranno a comporre il prossimo calendario ufficiale eTwinning Italia 2016, mentre l'autore della foto più bella vincerà una videocamera digitale GoPro e la copertina del calendario. Che aspettate? Hashtag scatta e twinning. L'altra Europa. Vi riportiamo ad Expo ora con l'altra Europa da un punto di vista molto interessante che è stato affrontato il 4 giugno al padiglione dell'Unione Europea con un workshop intitolato Tradurre, degustare, esportare. Il cibo ovviamente al centro, ma il cibo raccontato attraverso gli occhi della traduzione. Perché? Perché tradurre i cibi, tradurre le filiere, riuscire a tradurre il gusto, uno dei punti chiave per quello che è il settore agroalimentare. Quindi la Direzione Generale Traduzione della Commissione Europea ha organizzato questo interessante workshop proprio perché mette il focus su una tematica che magari può apparire secondaria, invece è centrale. Di tutto questo ne parliamo con Raffaele Gallus, antenna della Direzione Generale della Traduzione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ciao Raffaele, buon sabato e ben tornato all'altra Europa. Grazie dell'invito, questa chiacchierata. Buongiorno. Buongiorno a te. Raffaele, cosa significa tradurre il cibo? Bisogna essere tecnici, bisogna essere buon gustai, bisogna essere esperti di culinaria? Innanzitutto ci sono vari aspetti. Sicuramente è un settore dove il traduttore ha una responsabilità grandissima, è un settore molto regolamentato, c'è anche una recentissima un recentissimo regolamento europeo in cui proprio si prescrive che qualsiasi informazione alimentare deve essere data in una lingua comprensibile dal consumatore. Ma pensiamo alle responsabilità. Per esempio, non è solo questione di una cattiva immagine che si dà del prodotto, ma possono esserci anche rischi per la salute. Se per esempio un traduttore scrive albume invece di tuorlo tra gli ingredienti, si possono creare dei grandissimi rischi per chi è allergico e magari la traduzione è quella sbagliata. Certo. Mm-hmm. Però poi naturalmente c'è tutto l'aspetto culturale, c'è l'aspetto che poi è il più affascinante, cioè come trasporre in un'altra lingua quello che in una lingua è chiaro. Per esempio, tu come traduci Grissini in altre lingue? Io per esempio adesso ho davanti a me uno di quei comuni pacchetti di Grissini, sì, che trovi al ristorante, no? Uh-huh. E allora per esempio c'è in varie lingue, in inglese c'è scritto breadsticks, cioè bastoncini di pane, invece in francese si dice croissants e in tedesco hanno lasciato Grissini come se fosse italiano. Questo significa tutta una comprensione culturale, cioè il traduttore sa che in Germania il termine Grissini è conosciuto, mentre in Inghilterra non è conosciuto, quindi hanno dovuto scrivere breadsticks, bastoncini di pane. Certo. Ma ce ne sarebbero mille di quindi non solo conoscenza del vocabolario tecnico o culturale, ma appunto di quelli che sono le possibili interpretazioni. Perché c'è questa doppia direzione? Una è quella dei ricettari, degli itinerari, sì, enogastronomici, e poi, come già ci hai anticipato, c'è proprio quello delle normative. Il mondo è lo stesso, è quello del cibo, ma sono due sfaccettature bene distinte, dove servono estreme competenze. Sì, ma non è detto che un traduttore non si possa specializzare in entrambe le cose. Anzi, ieri avevamo anche delle università al nostro workshop che stanno proponendo degli interessantissimi nuovi master, dove ci si specializza appunto non solo in cultura del cibo, ma anche in mediazione della cultura del cibo. E poi non bisogna dimenticare l'aspetto turistico, che è fondamentale per l'Italia, no? Certo. E ascolta, ma come mai è nata l'esigenza di questo workshop? Perché vi siete accorti che comunque c'è una criticità? Sì, ci siamo accorti. In realtà, allora, innanzitutto il workshop rientra in un progetto della DG Traduzione, che come maggiore datore di lavoro per traduttori in Europa ha un grandissimo interesse a creare dei ponti tra i vari settori della traduzione, che poi sono quelli appunto delle agenzie, dei datori di lavoro e di tutto il mondo dell'industria linguistica. E così, tastando un pochino il polso con le varie associazioni, specie di produttori, abbiamo saputo che ci sono spesso delle difficoltà a reperire dei traduttori correttamente formati in Italia. Ed è un potenziale incredibile, perché se noi pensiamo che potenzialmente l'export italiano nel settore agroalimentare, si parla di una crescita del 4,5% quest'anno e del 6,5% nei prossimi 3 anni, ci sarà sempre più un'esigenza di traduttori correttamente formati in questo settore, e quindi abbiamo pensato di farli anche incontrare, no? I futuri certo. Traduttori, c'erano degli studenti con le industrie, c'era Illy, c'era Vinitaly, insomma si sono incontrati tutti e credo che sia stata una cosa molto molto fruttuosa. Assolutamente. Europa.eu Expo 2015, per conoscere il programma delle attività proposte all'interno del sito Padiglione Europa, le tagliatelle alla bolognese che esistono in tutto il mondo fuorché a Bologna, avete trovato il modo per tradurle? No, sono già tradotte così. Bisognerebbe scrivere al ragù di carne. Ne parlavo proprio tempo fa con un collega tedesco che non ci voleva credere che in Italia non esistono, eppure gli ho dovuto spiegare tutta una ricetta, poi alla fine credo l'abbia anche realizzata in maniera corretta, ma anche questa è tradizione, no? Se vogliamo. Assolutamente, assolutamente. Poi c'è il caso del radicchio di Treviso, il parmigiano, spesso non distinguono tra vongole e cozze fuori dall'Italia, oppure ci fanno una gran confusione tra scampi e gamberi, no? E ce ne sarebbero di esempi. Grazie davvero Raffaele, complimenti per l'ottima iniziativa, ciao, buon sabato. Grazie a voi. Europost-it. Erasmus Plus a Expo. Domenica 7 giugno il padiglione dell'Unione Europea a Expo dedicherà la mattinata ai giovani per raccontare insieme all'Agenzia Nazionale per i Giovani come sfruttare tutte le opportunità offerte dal programma Erasmus Plus. Expo rappresenta infatti un'occasione unica anche per promuovere la cittadinanza europea e per mostrare ad un pubblico internazionale in che modo si possa approfittare delle risorse a disposizione per conoscere da vicino l'Europa e fare esperienze formative in paesi diversi. Interverranno Giancarlo Caratti, vice commissario per la partecipazione dell'Unione Europea a Expo, e Giacomo D'Arrigo, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Tutte le informazioni sul sito agenziagiovani.it. Time may rush us, hurt all of us, but on this day we have arrived. It's been a long time coming, we've been in the running for so long, but now we're on our way. Let the ride just take us side by side and make us see the world through new eyes every day. Si chiama Generation Euro Students Award, il premio indetto dalla Banca Centrale Europea, premio che per il secondo anno consecutivo è stato vinto dalle ragazze del dell'istituto Delisi Pertini di Lucca. In questo caso quest'anno le ragazze della quinta A dell'indirizzo servizi commerciali. Con noi c'è una delle ragazze del team. Diamo il benvenuto a Martina Bartolomeoni. Ciao Martina, buon sabato. Ciao. Allora, avete vinto questo prestigioso premio. Credo siate state proprio premiate da Mario Draghi in persona, vero? Sì, sì, siamo andate nella sede centrale della Banca Centrale Europea a Francoforte e abbiamo avuto, diciamo, un po' l'onore di essere premiate da Mario Draghi. Uh-huh. Ma cosa avete realizzato? In cosa consiste questo concorso? Questo progetto consisteva in un superare le varie fasi e, diciamo, mettersi nei panni di Mario Draghi assumendo delle decisioni di politica monetaria. Uh-huh. E abbiamo redatto una relazione dove noi esprimavamo il nostro, diciamo, programma, e in questo programma abbiamo detto di continuare con questo quantitative easing, una manovra non convenzionale con cui, diciamo, la banca andava a immettere liquidità nel sistema per, diciamo, dare flusso all'economia. E niente, poi dopo siamo state premiate per questa intuizione. Quindi di fatto avete fatto finta di essere voi. Sì, ci siamo messi proprio nei panni di Draghi. Com'è? Cioè, vi siete sentite responsabilizzate? Sì, sicuramente sì. Uh-huh. Avete invidiato il suo lavoro o è un lavoraccio? Lavoro un po' difficile. Ascolta, questa intuizione, cioè voi comunque studiate economia, ovviamente, e siete state guidate, immagino, anche dai docenti, ma l'intuizione come vi è venuta? Lavoro di gruppo è stata una del team che è stata particolarmente illuminata. Come vi siete preparate al concorso? Abbiamo fatto varie ricerche anche su internet, abbiamo studiato tutti quegli argomenti che comunque se non rientro nel nostro programma scolastico, siamo informate anche leggendo vari articoli di giornale, cosa magari stava già facendo Mario Draghi. Uh-huh. E da lì abbiamo studiato delle varie, diciamo, possibilità, insomma, sì. Appunto i vari interventi. Studiare la Banca Centrale Europea aiuta a capire meglio l'Europa? Sì, sicuramente sì. Uh-huh. Aiuta a capire magari cosa vogliono fare, cosa un minimo sì. Ho capito. Ve lo aspettavate? No, assolutamente, perché anche tipo l'anno scorso già questa scuola aveva vinto questo concorso, abbiamo partecipato ma mai pensavamo di poter vincere. Mm-hmm. Insomma, quindi una grande, grande festa. Sì. GenerationEuro.eu è il sito del concorso per conoscere quello che è stato realizzato. Complimenti a te Martina, complimenti a tutte le tue colleghe. Ricordiamo la quinta A dell'indirizzo servizi commerciali Delisi Pertini di Lucca. Ciao e buon sabato. Ciao. Grazie. Martina, adesso ci fermiamo, un Euro Post-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro Post-it. Corte di Giustizia Europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, istituzione con il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione, è alla ricerca di giuristi linguisti da inserire come personale permanente a Lussemburgo. I candidati devono essere cittadini europei, avere come madrelingua l'italiano, il francese, lo spagnolo o il bulgaro, essere in possesso di una laurea in giurisprudenza e avere una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali dell'Unione Europea. I giuristi linguisti assunti avranno il compito di tradurre testi giuridici nella propria lingua principale e fornire analisi giuridiche in collaborazione con altri giuristi. Potrete trovare tutte le informazioni per la candidatura nella sezione Assunzioni del sito curia.europa.eu. I curricula dovranno pervenire entro il 23 giugno 2015. L'altra Europa. Sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, l'Europa che ci piace comunque raccontare. Euronet Plus R24, oppure Federico Taddia, i nostri account per seguirci anche sulle nostre piazze virtuali Twitter e Facebook, che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. E adesso andiamo a parlare di sviluppo, un po' perché è l'anno europeo dello sviluppo e un po' perché si è appena conclusa proprio questa settimana a Bruxelles, si sono tenute le giornate europee dello sviluppo, oltre 5.000 partecipanti in questo forum sullo sviluppo globale e la cooperazione, quindi si è fatto un po' il punto della situazione. Questa parola sviluppo dentro di sé tiene tantissime cose, tantissimi concetti, ma soprattutto tantissime organizzazioni e tantissime azioni. Di tutto ciò ne parliamo con Felice Zaccheo, vice capo Unità Energia della DG Cooperazione Internazionale e Sviluppo. Buongiorno Felice, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi e grazie per averci invitati. Cosa rappresenta per l'Europa lo sviluppo oggi? C'è stato questo forum che è stata l'occasione un po' per fare il punto, immagino non sia facile sintetizzare le tante persone, le tante teste che sono intervenute, però se tu potessi riassumere un po' quello che è il polso della situazione, da dove partiresti? Beh, partirei dall'importanza innanzitutto, come hai detto tu, della cooperazione allo sviluppo, della cooperazione internazionale allo sviluppo, che appunto è rappresentata, come dicevi, dall'anno europeo allo sviluppo, cooperazione importantissima per noi, per gli Stati membri e per l'Unione Europea, per la Commissione Europea, e penso che la giornata europea dedicata allo sviluppo, la due giorni di dibattiti che si è svolta ieri e l'altro ieri a Bruxelles, ne rappresenta l'esempio più importante. Diciamo che siamo in un momento cruciale per la futura della cooperazione, del futuro della cooperazione allo sviluppo, in quanto a settembre si prenderanno decisioni importanti per il seguito degli obiettivi dello sviluppo del Millennium Development Goal. Quindi questa è una cosa importantissima, e questo si è discusso inoltre 138 dibattiti che sono avuti in questi due giorni. Certo. C'è stata una copertura mediatica importantissima, con oltre 100 giornalisti e rappresentanti delle istituzioni, degli Stati membri, l'apertura dal Presidente della Commissione Europea, dal Presidente del Parlamento, dalla Presidenza di turno della Lettonia dell'Unione Europea e la Presidenza futura dell'Unione Europea del Lussemburgo. Mm-hmm. Quindi insomma, un punto chiave, a parte c'erano anche dei giovani, ho visto, provenienti sui future leaders, e una circolazione anche di esempi di buone pratiche nel campo della cooperazione internazionale. Ricordiamo che questo 2015, appunto come anno europeo, è stato suddiviso in 12 tematiche principali, una al mese: l'Europa nel mondo, donne e ragazze, democrazia, demografia e migrazione, sviluppo sostenibile. Queste sono alcune delle parole chiave. Felice, ma quando si parla di sviluppo, molte volte si scivola un po' nel pensare che si stia parlando di solidarietà, che si stia parlando di cooperazione, sì, verso il terzo mondo, comunque verso situazioni più meno fortunate. È solo questo lo sviluppo, o lo sviluppo nella vostra idea è anche altro? No, lo sviluppo nella nostra idea, nell'idea dei nostri partner, è sicuramente anche altro, è un partenariato. Uh-huh. Noi ci siamo allontanati senza chiaramente sminuire l'importanza delle azioni che abbiamo fatto in passato, ma pensiamo che adesso deve assumere una nuova dimensione. Se io posso fare un esempio, certo, della cooperazione nel campo di mia competenza, dell'energia, noi facciamo della cooperazione, di partenariato per sviluppare degli investimenti, per sviluppare delle cooperazioni tra i vari attori, tra il settore privato, tra la società civile, i legislatori nazionali, e chiaramente il ruolo che noi ricopriamo importante forze di paesi, di organismi internazionali donatori, diciamo. Certo. È un rapporto, io ci tengo a sottolineare, di partenariato. E questa insomma è un po' la parola chiave, perché vuol dire una copartecipazione di risorse, di test, di idee, di motivazioni, non si parla solo di finanziamenti o cofinanziamenti. www.eudevdays.eu, questo è il sito che ha raccolto tutto ciò che è successo durante le giornate europee dello sviluppo. È un tema importante, ne torneremo sicuramente in uno degli speciali che stiamo preparando per l'estate dell'Altra Europa. Grazie davvero a Felice Zaccheo, vice capo Unità Energia DG Cooperazione Internazionale e Sviluppo. Ciao Felice, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e buon fine settimana. Grazie. Europost-it. Concorso Vignetta Internazionale. Qual è il futuro dell'Europa? Il Regno Unito resterà nell'Unione? L'Europa deciderà di intervenire in Libia? L'estrema destra continuerà ad avanzare in Francia? Anche quest'anno la rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con Internazionale e con la partecipazione di VoxEurope.eu, ha indetto un concorso per premiare la migliore vignetta politica pubblicata sulla stampa italiana negli ultimi mesi. Per partecipare sarà sufficiente cercare il regolamento sul sito internazionale.it ed inviare il modulo di iscrizione all'indirizzo vignette@internazionale.it entro il 6 luglio. Il premio alla migliore vignetta sarà consegnato a Ferrara in occasione del Festival di Internazionale 2015. L'intercultura mi fa venire in mente principalmente l'incontro tra culture diverse. Mi viene in mente la reciprocità, cioè il dialogo soprattutto. L'accoglienza del diverso. La prima parola è il shock identitario, nel senso che non credo si possa parlare di intercultura senza parlare di conflitto tra etnocentrismi. Quante idee, quante immagini legate a questa parola, intercultura, e questa parola è anche il cuore di un importante progetto che ha come scopo quello di promuovere e stimolare la partecipazione culturale dei migranti. Quindi si parla di migrazione, ma da questo punto di vista che a noi piace tanto. Il progetto si chiama Brokering Migrants Cultural Participation, varie partner europei. Per l'Italia c'è Eccom, con noi c'è il presidente di Eccom, Cristina da Milano. Buon sabato Cristina, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buon sabato a voi. Qual è l'Altra Europa che cercate di fare più che raccontare attraverso il vostro progetto? Sì, noi da tanti anni ormai lavoriamo con i fondi europei per la cultura. Sì. E cerchiamo di promuovere quindi una visione più ampia di cultura per tutti i cittadini. In questo caso abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Direzione Generale Affari Interni dell'Unione Europea, e questo ci sembra molto importante perché vuol dire che la cultura viene riconosciuta come un settore trasversale in cui si può operare, e in questo caso la Direzione Generale Affari Interni ci ha concesso un finanziamento per realizzare questo progetto, che ha come scopo esattamente quello di fornire alle istituzioni culturali pubbliche degli strumenti per gestire la diversità culturale e per sostenere la partecipazione culturale dei migranti. Quindi questo è un modo per noi di fare cultura, cercando di coinvolgere pubblici diversi. Certo, un progetto anche lungo, quindi che ha permesso di sviluppare tante azioni. Stiamo arrivando un po' anche ai passaggi finali, se non erro. Adesso, senza entrare nel dettaglio di tutto quello che è stato fatto, perché è veramente tanto, sì. Però cosa vuol dire avvicinare i migranti attraverso la cultura? Ma è un processo, innanzitutto, è un processo lungo e complesso, che parte dal presupposto di considerare i migranti come nuovi cittadini. Sì. E quindi appunto come persone che hanno il diritto di usufruire dei servizi e delle attività culturali come cittadini. Molto spesso sappiamo che la cultura e le istituzioni culturali rimangono distanti da tante fasce della popolazione, non solo dai migranti, ma nel caso dei migranti c'è una distanza acuita dalla differenza culturale. Quindi direi che forse la cosa più importante che siamo riusciti a fare nell'ambito di questi due anni, come dicevi tu, il progetto è lungo, è iniziato nel 2013 e sta per concludersi, la cosa più importante è stata quella di organizzare delle giornate formative per operatori culturali, istituzioni culturali e anche istituzioni pubbliche, sì, che si sono riunite intorno a un tavolo insieme a soggetti che lavorano in altri settori, quindi nel settore sociale, nel settore dell'educazione, della scuola e dell'apprendimento per adulti, per scambiarsi buone pratiche e metodologie per capire come riuscire a interagire con i migranti. Mm-hmm. Prima parlavamo di cooperazione e sviluppo, insomma, il mettere insieme le buone pratiche è sicuramente il primo passo, no? Per ottimizzare anche, per avere l'umiltà, secondo me, di copiare ciò che è stato fatto da altri, magari portando risultati, e da lì si può partire per non reinventare tutto da capo. www.ecom.it è il sito della tua organizzazione per conoscere anche nel dettaglio quello che fate e in particolare questo progetto. Grazie Cristina, a fine mese, se non erro, in Spagna ci sarà la chiusura del tutto e poi vedremo i frutti di questo percorso, giusto? Esattamente. Okay. Grazie a voi. Ciao, buon sabato. Ciao, grazie ciao. Altrettanto. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa che vi raccontiamo in questa chiusura di puntata è l'Europa visionaria, l'Europa che sa anche guardare al futuro e magari lo fa con occhio bizzarro, occhio stravagante. Si chiama Invisible City, questo festival internazionale di multimedialità urbana, 13 partner internazionali e tanti, tantissimi artisti coinvolti, artisti a cui è stato chiesto di dare immagine, di dare così sostanza a una Europa futuribile. Tutto ciò sta avvenendo in questi giorni dal 3 al 7 giugno a Gorizia, Trieste, Nova Gorica e Miren. Con noi c'è Alessandro Catunar, presidente dell'associazione 4704, che è una delle associazioni partner del programma, del progetto, o meglio è l'associazione capofila. Ciao Alessandro, buon sabato e bentornato all'Altra Europa. Buon sabato a voi, grazie per l'invito. Allora, siamo nel vivo di questa manifestazione, di questo percorso, di questo processo, parola che oggi abbiamo utilizzato molte volte proprio perché dà l'idea anche di un'Europa che cammina. Cosa sta accadendo nelle quattro città in queste ore? In queste ore sta accadendo che partner provenienti da Italia, Slovenia, Croazia, Inghilterra e Olanda si stanno confrontando su un tema che è quello della multimedialità urbana, cioè su come sfruttare le potenzialità dei linguaggi innovativi, dei nuovi media, delle tecnologie digitali interattive per scoprire le città, per valorizzarle, per riscoprirle e reinventarle. Mm-hmm. Questo è fondamentale farlo mescolando gli sguardi, le competenze e creando dialogo internazionale. Certo. Questo lo stiamo cercando di fare soprattutto attraverso i linguaggi dell'arte, con installazioni, spettacoli e performance, ma anche attraverso il confronto, quindi seminari e workshop. Mm-hmm. E spesso, quasi sempre, quando si parla di città del futuro, subito si passa al concetto di smart city, quindi le nuove tecnologie. Qui voi avete fortemente introdotto l'elemento artistico, quindi sono città in grado anche di emozionare, città dove ti senti parte attiva, quindi forse non solo cittadino ma anche persona che quella città la può vivere a 360 gradi. Hai colto perfettamente nel segno. La nostra intenzione era di rendere caldo ed emozionante Un approccio che spesso invece può risultare freddo, che è quello della tecnologia, delle app, delle smart cities, e capire proprio come attraverso il connubio fra arte, tecnologia e spazi cittadini si possano raccontare storie, si possono emozionare i cittadini e i turisti, e si possono soprattutto reinventare spazi che ormai sono in disuso, sono chiusi. La caratteristica del festival è di essere in gran parte a cielo aperto, di invadere i negozi chiusi ormai da decenni, di invadere spazi poco conosciuti dalla cittadinanza. Quindi lo spirito è di rendere caldo, di rendere emozionante il tessuto cittadino attraverso la tecnologia, una tecnologia che sia in grado di trasmettere contenuti e non soltanto di offrire servizi, che è comunque importante, ma vorremmo creare questo connubio. Certo. Alessandro, vedo che c'è tantissima attenzione all'aspetto sonoro, workshop in ecologia acustica, c'è stata Trieste, una app di mappatura sonora della città, Gorizia, un'orchestra tattile, un'installazione sonora interattiva. Come mai? Qual è l'elemento in più che porta che può portare appunto il suono in una città? Ma noi abbiamo ragionato sul fatto che spesso si ricolleghi le nuove tecnologie soltanto all'aspetto visivo, e con spesso una disattenzione verso gli altri sensi, in particolare il sonoro. Invece il sonoro racconta moltissimo, il sonoro fatto di parole, rumori, suoni che possono essere raccolti, studiati, analizzati e rielaborati. Quindi effettivamente abbiamo puntato molto su questo aspetto, declinandolo in molte vie diverse. Il workshop di ecologia acustica è un workshop che permette di riscoprire gli spazi in cui si vive, prestando attenzione ai suoni e ai rumori che ci circondano e che caratterizzano ogni specifico luogo. Da questo se ne è ricavata una mappa interattiva che il turista può percorrere, così anche per la app Parla Gorizia. Tactile Orchestra invece è un'installazione che ha un approccio un po' diverso, che chiama in gioco il pubblico, chi passa nelle vicinanze lo obbliga ad avvicinarsi perché è un oggetto curioso, ci si mette le cuffie addosso e passando le mani su un telo morbido si fa musica esattamente come un direttore d'orchestra può dirigere degli strumenti. Quindi col spostare le mani si dirigono gli strumenti, si crea un vero e proprio concerto. Più umani interagiscono fra di loro, più il concerto sarà armonico, concreto e forte. Certo. Quindi approcci diversi, da una parte l'ascolto e l'analisi, dall'altra parte la possibilità di mettersi in gioco e creare attraverso il suono. Alessandro, un'ultima domanda: quanta Europa c'è in tutto questo? O meglio, al di là dei finanziamenti importantissimi, ci sono tanti punti di vista diversi, anche culture diverse coinvolte nello stesso progetto. Avete notato differenze sostanziali o così? Insomma, devo dire, un primo elemento importante, appunto, non è solo il finanziamento del progetto Creative Europe, che è stato fondamentale per far partire tutto, ma il fatto è che il festival, ed è uno dei pochi festival che lavora così, è proprio co-organizzato a livello internazionale. Non è che chiamiamo qui solo artisti e professionisti da tutta Europa, ma il programma è stato creato e gestito da tutti i partner, e questo è il primo punto. E poi ci siamo confrontati molto sia sul rapporto con le tecnologie, che è molto diverso fra paesi nordici come l'Inghilterra e l'Olanda, che hanno molta più tradizione in tal senso, e paesi come l'Italia, che forse su questo hanno ancora molto da lavorare. Quindi dall'Inghilterra e dall'Olanda hanno portato molte competenze anche tecniche. E poi ci siamo confrontati su un tema che è il tema portante di quest'anno, che è le città e la guerra. Ovviamente lo sguardo dei paesi come Italia, Slovenia e Croazia sulla guerra è molto diverso dallo sguardo che hanno olandesi e inglesi, e quindi anche le opere che parlano di città e guerra qui al festival ripropongono sguardi spesso contrastanti, interpretazioni diverse anche dello stesso tema. Credo che la ricchezza del festival sia proprio questa. Grazie davvero ad Alessandro Catunar, presidente dell'associazione 4704. Buon festival, ciao Alessandro. Grazie a voi. Questo grazie va a tutta la squadra dell'Altra Europa, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. Filippo Aureggi oggi ha giocato con i tasti. Il grazie come sempre anche a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it, il nostro sito da dove poter scaricare la puntata in podcast. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, collaborazione con Euronet Plus.